Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni, e andarono dietro a lui. Oggi inizia il tempo ordinario, un tempo in cui non ci sono particolari ricorrenze di festività riguardanti la vita di Gesù, ma è il periodo che va dal battesimo di Gesù, che abbiamo appunto celebrato ieri, fino al mercoledì delle ceneri, quando inizieremo la Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua. Nel tempo ordinario vediamo Gesù predicare e la prima predicazione che ci compare oggi è proprio quella dell'inizio, quando Gesù ha iniziato la sua attività pubblica. E come ha iniziato? Ha iniziato dicendo: Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Oggi il Signore sta dicendo a me e a te: Tiziana, svegliati, il tempo è compiuto, cioè non perdere più tempo. Cerca di sfruttare bene il tempo che hai a disposizione. Convertiti e credi al Vangelo, convertiti, cambia mentalità, cambia modo di pensare. Il nostro modo di agire dipende molto dal nostro modo di pensare. Allora dovremmo cercare di cambiare il nostro modo di pensare, ossia mettere al primo posto quello che Dio mette al primo posto e mettere all'ultimo posto quello che Dio mette all'ultimo posto, cioè avere una gerarchia di valori sana, conformare il tuo modo di pensare al modo di pensare di Gesù e vedrai che anche le tue azioni rispecchieranno il tuo pensiero. Poi che cosa fa Gesù? Va lungo il mare di Galilea e vede due fratelli, Simone e Andrea, e poi altri due, Giovanni e Giacomo. E chiama loro e dice: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Ecco, oggi mi ha colpito molto questo fatto, che Gesù chiama questi apostoli in un momento non mentre stanno pregando, non mentre stanno leggendo, no, quando stanno lavorando, nel pieno del loro lavoro. E però non li spaventa perché? Perché gli dice sì di andare dietro a lui, ma gli dice di diventare pescatori di uomini, ossia gli dice di fare, di continuare in certo qual modo a fare il loro mestiere. Loro non si impressionano di pescare perché erano pescatori. E questo che cosa ci vuole dire il Signore? Che qualunque cosa noi sappiamo fare, il Signore sfrutterà queste nostre doti per il suo regno, cioè per portare le anime più vicine a Dio. Quindi ai pescatori chiedi di pescare. A un altro che fa un altro mestiere gli chiederà quello che sa fare secondo il suo mestiere, però applicare la sua dote all'annuncio del Vangelo. Che cosa vuol dire che Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni devono pescare uomini? Di solito quando si pesca il pesce che fa? Non vive, muore. E in certo qual modo anche gli apostoli sono chiamati a pescare gli uomini, cioè a chiamare alla morte gli uomini, ma non alla morte vera, ma alla morte alla vita di prima. Ecco, tutti noi, se vogliamo seguire il Signore, dobbiamo morire al nostro egoismo. Allora, quando gli apostoli ci pescano, ossia quando noi come apostole e ognuno di noi come seguace di Cristo cerca di avvicinare qualcuno a Dio, sicuramente lo pesca, ossia lo toglie da quel mare che lo faceva vivere, che è il mare del male, e quindi lo fa morire in un certo senso per farlo vivere alla vita di Dio. Allora il Signore oggi ci sta dicendo questo: tu che doti hai? Come stai servendo il mondo? Come stai utilizzando i tuoi doni? Ecco, continua pure a utilizzarli per come sai fare, ma mettili a servizio del Signore. Trasforma la tua attività in qualcosa che non sia valido soltanto per qua giù, ma anche per la vita eterna. Allora iniziamo a vedere il nostro lavoro non solo come un momento per guadagnare il nostro pane quotidiano, ma vedere il lavoro o qualunque cosa stiamo facendo, e chi non ha lavoro, il suo sforzo per cercare il lavoro, vederlo proprio come un momento di grazia, un momento per servire il Signore, servire il popolo di Dio, un momento per crescere nella vita spirituale, perché non pensiamo che la vita spirituale sia la vita dell'anima. La vita spirituale è una vita animata dallo Spirito Santo e cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare, facciamolo subito. Non lo rimandiamo a domani, non rimandiamo a domani ciò che possiamo fare oggi. Diamoci da fare. Chi non ha lavoro, cerchi il più possibile di darsi da fare per trovarlo. Alle volte siamo un po' pigri a riguardo, aspettiamo sempre chissà quale occasione. Invece bisogna essere creativi, industriarsi, non perdere tempo, darsi una regola di vita. Fatevi seguire magari da qualcuno. Abbiate una guida spirituale, qualcuno che vi metta in riga, qualcuno verso il quale potete essere, in italiano non so come si dice, accountable, cioè che in certo qual modo a cui vi potete riferire per rimanere, diciamo, in riga. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così: il rinvio è l'assassino naturale delle opportunità. Il rinvio è l'assassino naturale delle opportunità. Buona giornata.